Conducete il cavalier. A me Roberti, il giudice del fisco. Tal violenza! Cavalier, mi piace accomodarmi. Può saper? Sedete! Aspetto! E sia! È noto che un brido la sua voce. È noto che un prigione oggi è fuggito da Castel Sant'Angelo. Ignoro. Eppure si pretende che voi l'abbiate accolto in Sant'Andrea. L'ho visto di giro e di festa. Menzogna. E guidato ad un vostro podere suburbano. Nego le prove. Un suddito fedele. Al fatto chi m'accusa? I vostri birri in van frugar la villa. Segno che ben celato. Sospetti di spia. Alle nostre ricerche irrideva. Rido ancora, rido ancora. Questo è un luogo di lacrime. Badate! Or basta! Rispondete! Si è nascosto! Ego! Ego! Via, cavaliere, riflettete, saggia non è cotesta ostinatezza vostra, angoscia grande,